Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Focus Economia. Questa sera ci sono io in vostra compagnia per raccontarvi la giornata economico-finanziaria lunga, ricca di temi molto interessanti. Chiaramente torneremo di nuovo sugli effetti e sulle conseguenze di questo coronavirus, che ovviamente sta continuando ancora a preoccupare le autorità sanitarie mondiali, ma per quello che riguarda il tema finanziario oggi devo dire che è stato totalmente accantonato. La borsa, particolarmente Piazza Affari, ha recuperato quasi integralmente tutto quello che ha perso ieri. Anche le altre borse internazionali sono positive in recupero, in rimbalzo, stanno guadagnando meno di quanto hanno perso appunto ieri, ma in ogni caso il clima sembra già radicalmente cambiato. Ci sono molte analisi che sono in corso di diffusione, che cercano, esattamente come succedeva ieri, oggi c'è un quadro un pochino più preciso, ma probabilmente sarà destinato poi a modificarsi anche nei prossimi giorni, su quello che potrebbe essere l'impatto in termini di PIL cinese e poi mondiale rispetto a questa crisi sanitaria. Ve ne racconteremo alcuni oggi di questi osservatori, cercheremo di capire anche le ricadute finanziarie un po' più dettagliate per settori di investimento, ma in ogni caso oggi la borsa appunto ha già cancellato i timori e le preoccupazioni di un contagio, quantomeno addirittura di una pandemia, che è il grande termine che è stato molto utilizzato in questi giorni. Milano, dicevamo, guadagna il 2,42%, poi vedremo i protagonisti di questa seduta. A cominciare da Atlantia, che guadagna il 6%, perché qua c'è ancora una volta una bagarre politica su revoca della concessione o meno. Nelle ultime ore qualche componente politica aveva fatto capire che alla revoca dritta non si volesse più andare. Poco fa sono arrivate invece altre dichiarazioni, sono per bocca del vice ministro Giancarlo Cancellieri, che in un post su Facebook appunto è tornato di nuovo a spiegare che il Movimento 5 Stelle chiede la revoca delle concessioni ai Benetton, da qui non si torna indietro, ma in ogni caso il titolo in questo momento sta credendo a qualche cosa di diverso. Le altre borse europee, tutte positive, Parigi più 1,11, Francoforte più 0,8, è rimasta sempre un pochino più indietro Francoforte in questi giorni, penalizzata forse anche dall'andamento delle compagnie aeree, Lufthansa e quant'altro. Londra in rialzo di un punto, Wall Street, anche Wall Street dopo i cali di ieri, oggi tenta la risalita, Dow Jones più 0,65%, Standard & Poor's più 0,91. C'è contestuale anche il crollo dei prezzi di molte materie prime, in particolar modo di quelle agricole, lo segnalano le agenzie da qualche minuto a questa parte. La Cina è un grande approvvigionatore in questo senso e di conseguenza, fermandosi, anche se temporaneamente, speriamo, la domanda di grano, mais e quant'altro, appunto è chiaro che si sentono delle oscillazioni sui prezzi molto violente, visto che la Cina è il principale consumatore appunto di queste commodity. Ne parleremo tra poco. Per quello che riguarda invece gli altri temi che affronteremo questa sera, chiaramente parleremo anche di altri argomenti, peraltro anche molto diversi. Parleremo delle pagelle che oggi sono state assegnate dalla Banca Centrale Europea alle banche europee, sottoposte appunto alla vigilanza della BCE. Le banche italiane sembrano promosse, insomma, la salute la stanno riconquistando piano piano, sembra essere rispetto al recente passato un po' più sotto controllo anche il problema dei crediti deteriorati delle banche, ma fra un po' ci racconterà a tutti il nostro Luca Davide del Sole 24 Ore. Un'altra notizia che, quando la si racconta, ha molto del folcloristico, ma in realtà adesso assume dei contorni piuttosto seri. Parliamo della situazione di tutti quei pensionati italiani che negli ultimi anni hanno scelto dei chiamiamoli così un po' paradisi fiscali, delle situazioni appunto di favore per quello che riguarda le tasse, decidendo di trasferirsi appunto in paesi che rendono la vita un pochino più semplice. Il caso del Portogallo, che oggi fa parlare di sé perché ha deciso, ed è una misura che sarebbe contenuta nella manovra finanziaria appunto di questo paese, di sospendere la detassazione per i pensionati stranieri, e quindi vedremo che sorte avranno a questo punto tutti quegli italiani anni che negli ultimi anni hanno deciso di trasferirsi in questa meravigliosa località torneranno indietro oppure sceglieranno appunto altri paesi che continuano a conservare una tassazione di favore e sono paesi appunto dove possono quindi godersi pienamente la pensione pagando molte meno tasse che in Italia. Pensate che si stima, lo raccontava sul sito del Sole 24 Ore, si raccontava appunto sul sito del Sole 24 Ore fino a qualche istante fa, ma il pezzo dovrebbe essere ancora online, che le pensioni pagate all'estero nel 2018 sono costate al nostro sistema previdenziale oltre 1 miliardo di euro e sono erogate a circa 400.000 persone in 160 paesi. Ne parleremo più tardi. Altri temi di cui parleremo anche di turismo in Italia, gli affitti brevi. So che questo è un tema che Sebastiano Barisoni sta annunciando da un paio di giorni, insomma c'è la categoria degli albergatori che è sul piede di guerra perché sta diventando veramente in particolar modo nella capitale un trend insostenibile e anche perché è molto poco emerso, molto poco alla luce e ci sarebbe anche una possibile stretta, appunto lo abbiamo appreso poco fa, una stretta per chi affitta ai turisti case o stanze per periodi brevi. C'è un emendamento al decreto mille proroghe presentato dal PD alla Camera che punterebbe a dare la possibilità ai comuni di consentire l'affitto turistico solo con il rilascio di una licenza ad hoc, stabilendo che anche un tetto al numero di permessi. E questo insomma è un tema interessante perché una maggior disciplina, una maggiore regolamentazione del settore, gli operatori del settore l'aspettano da tempo. Insomma, tante cose da raccontarvi anche stasera, se volete. Potete commentare con noi i fatti del giorno scrivendoci al 349-238-6666, riceviamo i vostri messaggi attraverso l'SMS, possiamo riceverli anche su WhatsApp, siamo su Facebook e direi che possiamo partire con le notizie in breve. Ah beh sì, è ritornato effettivamente ormai la vecchia leggenda secondo la quale quando ci sono io in conduzione a Focus Economia le borse vanno particolarmente bene, mentre Sebastiano è considerato un po' la Cassandra. Effettivamente oggi si ripete questa tradizione di successo, come fanno osservare molti ascoltatori affezionati al nostro programma. Peraltro vi anticipo già che ci sono anche i dati d'ascolto di Radio 24 e sono andati nel 2019 decisamente bene, ma questo poi ve lo racconteranno i giornali radio. Allora, materie prime. Abbiamo l'oro a 1576,3 dollari l'oncia, in leggero ribasso rispetto alla chiusura di ieri, meno 0,3%. Il petrolio in rialzo a New York a 53,3 dollari al barile, mentre come vi dicevamo prima sono in ribasso molto importante altre materie prime. Lo rileva appunto Chicago Bot, che è la borsa dove si negoziano le commodity, e anche questo appunto è un effetto importante della diffusione del coronavirus. Per quello che riguarda invece le altre notizie, allora la Gran Bretagna continuerà a servirsi di componenti fornite dal colosso cinese Huawei per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G nel Regno Unito. Lo ha annunciato il governo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di Sicurezza Nazionale, precisando però che Huawei sarà esclusa da qualunque ruolo nella fornitura di parti sensibili della rete. Gli Stati Uniti, lo ricorderete, avevano spinto per un bando totale della holding cinese che Washington accusa di legami con l'intelligence di Pechino. Siamo rassicurati dalla conferma che continueremo a lavorare con i nostri clienti per andare avanti sulla strada della realizzazione del 5G. Questo è il commento a caldo di Victor Zhang, numero uno di Huawei UK, alla decisione presa da Londra. È una decisione che offre al Regno Unito l'accesso ad una tecnologia leader a livello mondiale e garantisce la concorrenza del mercato. Gli Stati Uniti si sono detti però delusi da questa decisione arrivata da Londra di andare avanti appunto con Huawei. Lo ha fatto sapere qualche fonte dell'amministrazione Trump, non c'è alcuna opzione di sicurezza, dicono da Washington, siamo di fronte a fornitori di cui non ci si può fidare. Allora, coronavirus, fino adesso queste sono le ultime statistiche, vedremo se gli ultimi dati se saranno destinati ad essere aggiornati a breve. Al momento abbiamo 106 morti, di cui 100 nella sola provincia di Hubei, e i nuovi casi di contagio registrati sono stati nuovi 1300, e quindi praticamente siamo arrivati ad oltre 4500 contagiati complessivi, 7000 casi sospetti in attesa di conferma. Ogni persona contagiata da questo virus può infettarne in media altre 2,5 abbondanti, con un tasso che varia da 1,5 a 3,5. Queste sono stime che arrivano da ricercatori di Londra che collaborano con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo tema, questo dato rende il tasso di diffusione del coronavirus confrontabile a quello della SARS e della pandemia influenzale del 2009. In considerazione di questa epidemia, i cittadini cinesi sono stati invitati ad evitare viaggi all'estero per garantire salute e sicurezza di stranieri e cinesi. È il messaggio che è arrivato dalla National Immigration Administration cinese. Ne parleremo tra poco, perché noi peraltro, e sì, se avete avuto la pazienza di seguire anche questa mattina Due di Denari, abbiamo interpellato un rappresentante della FIAVET, che è la Federazione delle Agenzie di Viaggio Italiane, che ci ha invece spiegato come funziona un po' al contrario, se è il caso di ridurre e limitare o evitare del tutto in questo momento i viaggi verso questa località. La Cina è molto ampia naturalmente, quindi è chiaro che verso le zone colpite direttamente dal virus non è il caso di presentarsi, ma siccome appunto l'estensione territoriale di quest'area è immensa, bisogna capire quante sono le precauzioni che bisogna adottare appunto per quello che riguarda gli spostamenti. Intanto anche Hong Kong ha deciso di bloccare i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina continentale dal 30 gennaio, negli sforzi di fermare la diffusione del virus. Indossando peraltro una mascherina verde protettiva, la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto di vedere ingiustificata la chiusura totale delle frontiere con la Cina, aggiungendo però che sarà dimezzato il numero totale dei voli transfrontalieri. I permessi individuali per i viaggi, ha detto in un incontro con i media, saranno sospesi. Altre notizie che arrivano adesso dall'Italia, occupiamoci per un attimo del nostro paese. Il PIL pro capite vede in cima alla graduatoria l'area del nord-ovest, con un valore in termini nominali di oltre 36.000 euro, quasi il doppio di quello del mezzogiorno, pari a circa 19.000 euro l'anno. 19.000 euro annui. Lo rileva l'Istat in base a dati riferiti al 2018, anno in cui il PIL in volume, il prodotto interno lordo, la ricchezza del nostro paese, è aumentata dell'1,4% nel nord-est, dello 0,7% nel nord-ovest e nel centro, e dello 0,3% nel mezzogiorno. L'Istat ricorda che la crescita media su base nazionale è stata dello 0,8%. L'Istituto di Statistica ha evidenziato come il nord-est sia stata la ripartizione più dinamica, trainata dalla performance dell'industria, tanto da doppiare il risultato del nord-ovest, che insieme al centro restano sotto la media nazionale, e invece la crescita più lenta, come dicevamo, si registra nel mezzogiorno. Proprio in questi minuti viene presentato a Milano il tradizionale rapporto Einaudi. L'iniziativa è promossa dal Centro Studi Einaudi, appunto è UbiBanca, e lo studio è realizzato dall'economista Mario De Aglio. Domani avrete l'opportunità di sentirlo a Focus Economia, intervistato da Sebastiano Barisoni. Cosa dice? Vi do qualche anticipazione. Il rapporto di quest'anno: dopo gli anni della grande recessione, dal 2009 al 2019 la ripresa si è rivelata anemica in tutti i paesi avanzati, e l'Italia è l'ultima della classe in termini di crescita economica. Alla fine dello scorso anno in Italia si è verificato quello che il rapporto definisce il tilt del PIL. Il paese torna in prossimità della crescita zero a 10 anni dalla grande crisi del 2009 ed è l'ultima della lista delle economie sviluppate ordinate per crescita decennale del PIL. Per il nostro paese, avverte il rapporto, il 2020 sarà da ricostruire partendo quasi da zero, come quando si scrive una pagina bianca. Questo a 10 anni appunto dalla crisi. È decisamente, conferma appunto e sottolinea Mario De Aglio, un risultato sotto le attese. Oggi a livello mondiale i dazi imposti da Trump cominciano ad essere un peso sull'economia mondiale, ha detto appunto l'economista. Domani avrete l'occasione di sentire direttamente dalla sua voce il contenuto di questo rapporto. Io non sono assolutamente contraria ad aprire un confronto a tutto campo, compreso ovviamente il tema della rimodulazione dell'IVA. Bisogna capire se il carrello della spesa, quindi la spesa quotidiana degli italiani e delle italiane, passando anche per le bollette, diminuisce o cresce. Questo è stato quanto affermato dalla segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, a Milano, a margine del Consiglio generale della Lombardia del sindacato. Un'altra notizia che voglio anticiparvi e che noi affronteremo nella seconda parte di Focus Economia è una notizia molto interessante e che però insomma pur rilevante ci colpisce un po' per il ritardo con cui questo pronunciamento è arrivato, perché nel frattempo, pagando le inadempienze della pubblica amministrazione, decine di migliaia di aziende sono morte nel frattempo. Cosa è successo? L'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali con le imprese private di termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia europea nella sentenza che vede la Commissione europea contro l'Italia per i ritardi dei pagamenti nella pubblica amministrazione, quando poi ci sono stati, perché in molti casi la pubblica amministrazione è anche totalmente inadempiente e le imprese muoiono. La Commissione aveva aperto questa procedura di infrazione contro Roma, deferendola alla Corte di Giustizia, che oggi ha constatato una violazione nella direttiva sulla lotta contro i ritardi di pagamento. Anche questo sarà un tema che approfondiremo più tardi per capire oggi in che situazioni siamo. Per una impresa che riceve un appalto, insomma, dalla pubblica amministrazione, in quanto tempo deve aspettarsi di essere pagata per il lavoro che fa? Cercheremo di capirlo più tardi, appunto, qual è oggi l'entità del problema. Sono le 17:24, partiamo col primo approfondimento di oggi, si lasciamo qua le notizie in breve. Allora, ancora l'effetto del coronavirus, da una parte in termini prettamente finanziari, e poi andremo di nuovo a fare anche una valutazione di carattere economica, soffermandoci al mondo del turismo. Due ospiti. Intanto saluto e ringrazio di essere con noi Sara Silano, caporedattore di Morningstar. Buonasera Sara e benvenuta. Buonasera a tutti voi. Allora, per chi non lo sapesse, Morningstar è una enorme società di analisi e soprattutto una società di rating che attribuisce le pagelle, i voti, i giudizi e i fondi di investimento, che sono i grandi strumenti di risparmio delle famiglie italiane, ma a livello mondiale. Oggi Morningstar ha rilasciato questo rapporto curato dall'analista Chelsea Tam, che noi non abbiamo potuto interpellare, quindi abbiamo con noi con grande piacere Sara Silano. Sostanzialmente pubblicato questa analisi dei titoli che potrebbero essere maggiormente penalizzati dall'epidemia di coronavirus. Allora, Sara, abbiamo già raccontato in queste giornate quanto siano state colpite dalle vendite le compagnie aeree, tutte le società in qualche maniera riconducibili al settore del fashion, della moda, quindi tutto quello che è settore di grande consumo in queste aree, che se adesso si paralizzano, chiaramente si bloccano ad ogni livello, nei consumi, in ogni tipo appunto di genere. E che cos'altro, insomma, che cosa avete scoperto, che cosa avete analizzato nel dettaglio e soprattutto avete anche cercato di capire quanto e come, qual è la gettata temporale di questa emergenza? A livello finanziario, chiaramente, perché poi tutto il resto, chi può dirlo, non siamo dei medici né degli scienziati qua. A livello finanziario assolutamente possiamo dire che, in base a una nostra analisi, le società di viaggio, le società del turismo saranno probabilmente quelle più colpite, quindi mi riferisco a trasporto aereo, strutture alberghiere, aeroporti, ma anche casinò, resort, eccetera. Questi, secondo una nostra analisi che è stata fatta partendo da quello che era successo con la SARS. Ricordiamo, la SARS nel 2003 è un virus simile, un'emergenza simile, quindi siamo partiti da questa analisi per capire gli impatti. Quanto potrebbe durare? Questo è il tema forte, perché se siamo tutti d'accordo che questo tipo di società potranno essere particolarmente impattate, questo impatto potrebbe essere di breve periodo, potrebbe essere, parlano i nostri analisti, magari di un trimestre che sarà sicuramente difficile, ma che poi darà spazio invece a una ripresa. Ad esempio, cos'era successo, per fare proprio degli esempi pratici, durante la SARS il numero di biglietti venduti online di compagnie aeree era sceso di circa il 36%, e qui però poi c'era stato un ritorno, l'effetto era durato appunto un trimestre. Le prenotazioni alberghiere ugualmente online erano scese del 43% in un trimestre, ma al trimestre successivo già si erano visti risultati positivi. Questo per fare qualche esempio. Ci dobbiamo quindi aspettare probabilmente un trimestre difficile, ma dicono anche i nostri analisti, potrebbe accadere che la sottovalutazione, quindi la penalizzazione anche di alcune di queste grandi società che saranno più toccate del settore aereo, del settore del turismo e dei viaggi, riescano ad ottenere delle valutazioni più attraenti, quindi da un punto di vista degli investimenti potrebbero diventare un'opportunità se si ragiona come era accaduto nel 2003. Segnalo invece che il Sole 24 Ore ha fatto un lavoro diverso, è andata a caccia di quelle notizie che invece purtroppo da questa emergenza hanno tratto un grandissimo vantaggio, e sono in particolar modo quelle società che in questo momento stanno sostanzialmente cercando di studiare il vaccino per poter arginare questa emergenza. C'è Vito Lopsi, il collega del Sole, appunto, che ne cita qualcuna, io non le conosco quindi perdonatemi la pronuncia. Vir Biotechnologies, fino a poche ore fa era una poco nota clinica specializzata nel settore immunologico basata a San Francisco. Solo dall'inizio dell'anno le azioni della compagnia sono balzate del 97%, chiaramente con un rialzo molto concentrato in questi ultimi giorni, portando la capitalizzazione di mercato vicino ai 3 miliardi di borsa. Questo tanto per dire ovviamente quanto il cinismo degli operatori finanziari appunto si manifesti in maniera molto evidente in queste circostanze. Poi il rally borsistico coinvolge anche altre tre aziende statunitensi, sono Inovio Pharmaceuticals, Moderna e Novavax, anche in questo caso perché stanno studiando appunto tutte le possibilità per poter curare le persone che si stanno ammalando appunto di questo virus. E poi c'è allo studio anche il tema del vaccino, come vi dicevo, che peraltro è stato oggetto anche in tutti quei gruppi scientifici che si sono incaricati appunto di studiare delle soluzioni, di una grossa donazione a quanto pare della fondazione di Bill Gates, che avrebbe messo in campo un bel po' di milioni di dollari appunto per sostenere, come dicevo, questi gruppi di ricerca. Sara, dobbiamo aggiungere qualcos'altro rispetto al vostro studio? Un'ultima cosa, sicuramente il paragone col 2003 può essere appropriato, ma bisogna tenere presente che la Cina è cambiata nel frattempo, quindi i viaggi sono molto aumentati, questo bisognerà tenerlo presente, e molte aziende hanno anche dei business al di fuori della Cina, quindi potrebbero essere meno intaccate. Grazie a Sara Silano, caporedattore di Morningstar. Io intanto passo al secondo ospite, lo saluto, Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. Presidente, buonasera. Sì, buonasera. Allora, se non la sentiamo bene, adesso intanto magari rifacciamo un test con la telefonata. Nel frattempo facciamo così, vi faccio ascoltare quello che ci ha detto stamattina a Due di Dinari Ivan Jelinic, presidente nazionale della FIAVET, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo. Ha raccontato come si stanno organizzando gli operatori del settore, quali sono le possibili alternative per chi aveva già prenotato un viaggio dall'Italia verso la Cina e le zone, chiamiamole così, un po' contaminate. E chiaramente queste persone, se volessero rinunciare al viaggio, se fosse stato di piacere, rinunceranno abbastanza probabilmente, se è un viaggio di lavoro magari c'è un po' più di difficoltà, ma dovrebbero essere tutti totalmente risarciti, tutelati e protetti appunto da questa scelta. Sentiamo che cosa ci ha detto la presidente di FIAVET. Chiaramente la tensione è tanta, stiamo per il momento facendo un monitoraggio molto attento, praticamente in tempo reale, soprattutto con quelli che sono non solo gli organi di stampa, ma sia gli operatori cinesi, ma soprattutto anche le autorità governative. E quindi siamo in stretto contatto con l'ambasciata e quant'altro, proprio per avere informazioni più precise e più dettagliate possibili. Questo è fondamentale per riuscire poi a dare delle indicazioni. Da un paio di giorni il governo cinese ha confermato il blocco dei tour organizzati. Quindi noi abbiamo dato comunicazione ovviamente a tutti i nostri associati e non, chiaramente, di adeguarsi rispetto a questa decisione da parte del governo, anche se abbiamo notizia di comunque alcuni clienti che hanno deciso di partire lo stesso. Per quanto riguarda la Cina, in questo momento le partenze per il prossimo futuro immediato, quindi le prossime settimane, sono equiparabili, questa situazione è equiparabile a una causa di forza maggiore, quindi a un evento imprevedibile che di fatto dà il diritto di poter avere intanto un cambio di destinazione, quindi non perdere la possibilità comunque di fare il proprio viaggio, ma di poter scegliere una destinazione diversa e alternativa. I tour operator possono mettere a disposizione quindi delle alternative di pari valore anche da un punto di vista economico. Se si decide di non partire e di non voler null'altro in alternativa, si ha diritto a ricevere il rimborso del viaggio. Vale anche se uno aveva programmato viaggi da tutt'altra parte della Cina? Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, al momento le indicazioni che vi ho dato sono valide per tutto il territorio. La Cina non è il posto ideale per fare il turista fai da te? Molto spesso chi decide di auto-organizzarsi un viaggio, una vacanza, magari non pensa a fare una polizza assicurativa medica, sì, quindi di carattere sanitario, oppure poi si ritrova ad avere delle problematiche, banalmente la necessità di anticipare, spostare un volo aereo, o una situazione in qualche modo di emergenza o imprevista, dove in realtà ci si ritrova assolutamente da soli e si corre il rischio poi di avere delle grosse problematiche. Ci fermiamo per una piccola pausa, ma torniamo immediatamente. Focus Economia. E allora, l'abbiamo preannunciato prima, qualche difficoltà di collegamento, vediamo se siamo riusciti a ripristinare una buona qualità della nostra telefonata. Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, buonasera. Sì, buonasera, mi sentite? Sì, sì, adesso molto meglio, sì, ottimo. No, allora, sì, in realtà noi avevamo così in ballo questa chiacchierata da qualche giorno perché volevamo commentare con lei quello che è emerso dal vostro 16° Albergatore Day, quando avete lanciato un vero e proprio allarme per quello che riguarda la questione degli affitti in breve, non da contestare in assoluto questo fenomeno, ma nella sua modalità di essere diventato un pochino selvaggio, soprattutto in una città importante come Roma. Adesso ci arriviamo, Presidente. C'è però un emendamento al decreto mille proroghe che, a quanto pare, sarebbe intenzionata a venire incontro alle vostre istanze. Arriviamo anche a questo. Prima però mi deve raccontare che clima c'è a Roma rispetto ai timori legati ai flussi turistici, determinati chiaramente flussi turistici che staranno un po' cambiando volto in queste settimane a causa del coronavirus. Siete in allerta anche per questo, Presidente? Beh sì, diciamo che anche se non rappresentano numeri importantissimi, La diminuzione in questi giorni è sensibile, riceviamo cancellazioni ogni ora sia di gruppi che di clienti individuali che prenotano attraverso. Mannaggia, adesso vediamo se riusciamo. C'è, Presidente? Sì, sì, ci sono. Eccoci qua. Mi sento benissimo. Eccoci qua, ogni tanto la perdiamo. C'è una forte diminuzione di cancellazioni. Niente, non riusciamo, è in viaggio, Presidente Roscioli. Allora facciamo una cosa, chiedo ai colleghi, a Barbara Bianchi e a Claudio Balboni, appunto, se possiamo chiamare Eleonora Micheli per raccontare la giornata di borsa, dando Piazza Affari a chiusi i battenti, ormai archiviando un +2,61% di rialzo sulle FTSE MIB, magari spostandosi di tragitto. Ci riproviamo con Roscioli? No, ha chiuso. E comunque magari ci ritorneremo, non è un argomento che scade, quello che volevamo affrontare con lui, e magari lo potremo anche recuperare nei prossimi giorni quando avrà una posizione un pochino più stabile. Allora, sentiamo Eleonora Micheli, ce l'abbiamo. Eleonora, sì. Buonasera. Buonasera. Una giornata un po' rocambolesca e quindi adesso proviamo invece a dare stabilità a questa conduzione con quanto ha decretato la seduta dei mercati finanziari in Europa. Per Milano un vero e proprio colpo di spugna sulla giornata di ieri, oserei dire, Eleonora, perché si porta a casa un +2,61% e soprattutto vedo tutti e 40 titoli delle FTSE MIB in positivo. Sì, poi Piazza Affari è nettamente la migliore, un po' indietro, Madrid più 1,26%, Parigi più 1%, Francoforte addirittura più 0,9%. Insomma, Piazza Affari la migliore sembra festeggiare a scoppio ritardato il risultato elettorale dell'Emilia Romagna, che secondo gli osservatori allontana l'ipotesi di un'imminente crisi di governo. Tant'è che anche lo spread si è riportato al di sotto dei 140 punti, non solo, ma il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni, dei bond a 10 anni in giornata si è portato sotto la soglia dell'1%, poi ha chiuso all'1%, non succedeva praticamente dallo scorso novembre. Questo ha favorito ovviamente gli acquisti, come hai detto tu, un po' su tutte le blue chips, in particolare sulle banche, che hanno tutte rialzato la testa beneficiando dell'andamento dello spread. E poi ci sono alcuni casi particolari: Atlantia ha fatto oltre più 6%, anche in questo caso il motivo è prettamente politico, il risultato elettorale dell'Emilia Romagna sembra mettere più in primo piano il PD rispetto al 5 Stelle e secondo sempre gli esperti il PD è più favorevole a un dialogo con la società anziché alla revoca delle concessioni autostradali. Anche se, come dicevo prima in apertura, poco fa ha parlato di nuovo il viceministro Giancarlo Cancelleri, ha parlato, adesso come sapete si comunica solamente attraverso dei post su Facebook, è tornato a ribadire, ha detto così, ha scritto così: lo ribadisco qui a scanso di equivoci, visto che una certa stampa poi strumentalizza a proprio piacimento, nero su bianco il Movimento 5 Stelle vuole e chiede la revoca delle concessioni ai Benetton. Se qualcuno ha dei dubbi nel governo lo dica chiaramente, ma nel Movimento 5 Stelle non c'è nessun dubbio, solo certezze, in particolare una: subito la revoca ad Autostrade, sono morte 43 persone, noi non ne dimentichiamo. Come sapete invece un'area del governo è contraria a questa posizione così radicale. In ogni caso oggi il titolo appunto ha creduto ad una forma più morbida di riorganizzazione dei rapporti appunto con Atlantia, più 6,38%. Sono andate molto bene Poste Italiane, più 4,18%, Nexil, colosso dei sistemi di pagamento, più 4%, questo gruppo sta già viaggiando sui suoi massimi da tempo perché il mercato ipotizza un'operazione di consolidamento nel settore, un'ulteriore riorganizzazione dopo che c'è stata un'operazione con Intesa San Paolo alla fine del 2019. Poi naturalmente, dicevamo, le banche tutte bene, anche per sia probabilmente per effetto della promozione della BCE, della quale parleremo tra poco, ma anche per effetto della riduzione dello spread. Ma è andato oggi molto bene anche, Eleonora, il settore del risparmio gestito. Eh sì, il risparmio gestito è andato molto bene, in particolare più o meno tutti i titoli, da Azimut a Banca Generali, Anima, la stessa Fineco che ha fatto più 3,8%. Diciamo, a riaccendere i riflettori sull'industria del risparmio gestito è stato un report favorevole di HSBC, che consiglia addirittura l'acquisto, diciamo, di tutte le azioni, puntando l'attenzione in particolare su Azimut, Anima e Fineco. Questo perché, facendo un po' di considerazioni, l'Italia è uno dei paesi che vanta la maggiore ricchezza privata e praticamente questa ricchezza privata alla fine molto probabilmente, in un contesto, in uno scenario di tassi di interesse negativi o comunque pari allo zero, dovrebbe essere convogliata verso i prodotti del risparmio gestito e quindi dovrebbe continuare a favorire questi titoli, queste società, nonostante nel 2019 la maggior parte delle azioni delle principali società di risparmio gestito abbiano fatto molto bene. Però secondo HSBC siamo solo agli inizi e c'è ancora un vasto spazio di crescita. Tra l'altro segnalo anche, ne approfitto proprio di questa chiacchierata con Eleonora Micheli, per ricordare che queste società che ha citato Eleonora, quotate in borsa, ma molte altre, tutti big del risparmio, saranno a Roma settimana prossima insieme a Radio 24 e a Due di Denari, perché ci andremo io e Mauro Meazza, appunto a Consulenzia 2020, che è la grande kermesse del mondo della consulenza finanziaria, per cui troveremo sicuramente degli spunti anche per commentare questi argomenti che abbiamo appena affrontato adesso commentando la seduta di borsa di alcuni big del settore. Allora, il lusso, il grande settore tenuto sotto osservazione in queste ore. Abbiamo la pausa adesso, che non me lo ricordo, ragazzi. Sì, la facciamo, poi continuiamo a chiacchierare con Eleonora. Sì, andiamo un attimo. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Ancora commentare la giornata di borsa. Allora, con Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, volevo così un po' dare qualche indicazione sul settore del lusso, che insieme alle compagnie aeree ha avuto delle forti penalizzazioni nelle ultime giornate legate alle preoccupazioni per l'estensione del coronavirus. Oggi vedo che un po' tutti si sono ripresi. Salvatore Ferragamo è andato bene, ha avuto un guadagno di 2,5 punti. Ancora Moncler, vabbè, non c'è stato nessun titolo negativo a Milano, quindi un recupero generale per tutte le maison europee? Sì, anche perché oggi è una giornata importante, a mercati chiusi da un momento all'altro si attendono i conti relativi all'ultimo trimestre, relativi alle vendite di Ferragamo. Te li do, più 13,8% vendite nel 2019 in Cina, ma nel quarto trimestre meno 50%, pesa Hong Kong. Questo è il flash dei tuoi colleghi di Radiocore, sì. E vedremo domani quanto Ferragamo pagherà questa indicazione del tracollo del business ad Hong Kong. Esatto, e poi stanno arrivando anche i conti del colosso numero uno al mondo, ossia LVMH, quindi è una giornata molto importante. Ovviamente dopo i tracolli di ieri, oggi tutto il settore del lusso si è un po' ripreso, anche perché stanno emergendo anche degli articoli, dei report in cui si getta un po' acqua sul fuoco per quanto riguarda la trasmissione del coronavirus e soprattutto l'impatto che può avere sull'economia. Sembra che sia un po' meno violento e virale della SARS del 2003, dunque sulla scorta di queste aspettative c'è un po' un recupero di tutti i titoli più esposti in Cina. Ad esempio, al di là del lusso, oggi sono andate molto bene anche le ST Microelectronics, più 3,5%. In questo caso si scommette non solo su appunto il fatto che l'impatto sul PIL cinese dell'eventuale coronavirus sia inferiore all'attese, ma anche sulle indiscrezioni in base alle quali Apple addirittura ha richiesto ai produttori asiatici diciamo maggiori forniture per le vendite del proprio smartphone, quindi indicazioni positive. ST Microelectronics, ricordiamo che è uno dei principali fornitori anche della stessa azienda di Cupertino. Grazie ad Eleonora Micheli per essere stata con noi. Tanto per dovere di cronaca, diamo anche i peggiori titoli di oggi, che sono quelli che praticamente, siccome sono tutti positivi, quelli che hanno guadagnato meno: Saipem più 0,25, Pirelli più 0,37, Juventus più 0,4, più 0,6% per Leonardo Finmeccanica, più 0,7 per Campari, più 0,9 per Recordati, tutti i titoli che hanno una prestazione inferiore al rialzo di un punto percentuale. Adesso di nuovo, prima della chiusura di questo blocco, rivoltiamo pagina. Di pagelle per le banche europee vigilate dalla Banca Centrale Europea, banca centrale guidata da Christine Lagarde, che ha diffuso oggi i risultati del cosiddetto SREP 2020. È il quinto esercizio sul processo di revisione e valutazione prudenziale, da qui l'acronimo inglese SREP, da quando la vigilanza sugli istituti significativi è passata a partire dal 2014 sotto la responsabilità diretta di Francoforte. Un documento dove ci sono a quanto pare delle buone notizie che riguardano le banche italiane, che ha letto tutto per intero, tutto in inglese, se l'è anche portato in studio Luca Davi, Il Sole 24 Ore. Luca, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, ti sei perso qualche virgola, hai letto tutto, adesso a parte gli scherzi, insomma, raccontiamo e spieghiamo ai nostri ascoltatori qual è l'importanza di questo documento di ricognizione dello stato di salute delle banche europee e soprattutto che cosa emerge rispetto al panorama creditizio italiano. È un documento importante perché è un po' lo stato dell'arte, la fotografia dello stato di salute, una radiografia approfondita di come stanno le banche europee, quelle che sono sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea. È un momento a cui guardano tutti gli analisti anche per confrontarsi un pochettino e vedere come sono e come stanno le banche ovviamente italiane e capire anche in confronto, in raffronto a quelle europee. Come dicevi giustamente te, quelle italiane non se la cavano male. Anzi, bisogna dire che nel complesso l'andamento complessivo del sistema creditizio italiano è positivo. Perché? Perché la BCE, che ogni anno appunto valuta la rischiosità dei vari processi di controllo prudenziale gestiti dalle singole banche, assegna un cosiddetto buffer, cioè una sorta di requisito in più aggiuntivo rispetto a quelli che sono i requisiti regolamentari previsti dalla normativa. E quindi più alto questo buffer, maggiore la rischiosità intrinseca della singola banca. Bene, in questo senso le banche italiane se la cavano anche un po' meglio della media europea, cioè il requisito aggiuntivo, sintetizziamo, è attorno a un 2% contro una media europea che è attorno al 2,1%. Significa sostanzialmente che le banche italiane, almeno per il 2019 in prospettiva sul 2020, sono percepite come meno rischiose in media rispetto a quelle europee. Rispondere a questo requisito aggiuntivo significa dover mettere da parte ulteriore capitale per fronteggiare significa situazioni complesse. Significa avere più capitale rispetto a quello che ovviamente è appunto la richiesta minima. Le banche ovviamente già assolvono a queste richieste, ne hanno anche molto di più rispetto a quello che è il requisito ovviamente della Banca Centrale Europea, però ovviamente è un segnale importante quello che si dà al mercato di avere un requisito più basso rispetto a quello che invece viene richiesto alle altre banche. Bene, andando nel dettaglio, si può dire che gran parte delle banche italiane sostanzialmente passano ovviamente i test BCE senza alcun problema. C'è qualche banca che invece si ritrova, diciamo, una pagella un pochettino più pesante da portare a casa, e sono una in particolare banca MPS, perché si ritrova invece un fardello del 3% a cui deve rispondere. C'è Banca Popolare Sondrio che, a sorpresa, ma in realtà neanche troppo perché l'avevamo già anche raccontato pure noi, si ritrova anch'essa un 3% di richiesta aggiuntiva. Questo è esito di quello che è un po' successo quest'anno. La banca ha tentato di fare uno scambio con Cassa Fondazione di Cento, che però non è andato bene perché prima doveva risolvere alcuni problemi sui crediti deteriorati. Insomma, è una sorta di piccola multa che la BCE fa scontare alla Banca Popolare di Sondrio, che rimane una banca solida ovviamente, però ovviamente ha dei problemi da superare. Ammonite. Senti, invece le prime della classe quali la sono? La prima della classe ed è forse un vanto anche per il sistema creditizio italiano è Credem, Credito Emiliano, che si ritrova all'1% solamente di buffer, appunto il cosiddetto Pillar 2 requirement, insomma, come dire, questo cuscinetto di capitale aggiuntivo. L'1% è sostanzialmente il livello più basso fra tutte le banche europee, se si escludono due o tre finanziarie appunto a livello più europeo, ma che non sono banche commerciali. Bene Intesa San Paolo con l'1,25, ricordiamo che la media europea è del 2%, quindi Intesa San Paolo, scusate, 1,50, c'è un 1,25 di Mediobanca, Unicredit 1,75, c'è un Bipper al 2%, insomma, complessivamente le banche italiane, devo dire, hanno un buon risultato. Non tutto è ovviamente, si può dire, risolto, perché i problemi, l'onda lunga della crisi economica ha lasciato strascichi nei bilanci. C'è ancora un tema grosso che è quello dei crediti deteriorati, che lo stesso numero uno della vigilanza europea, Andrea Enria, ha evidenziato, e quindi la qualità degli attivi rimane un focus e un'urgenza ovviamente da risolvere. E quindi si chiede anzi un'accelerazione alle banche italiane per sciogliere questo nodo, che rimane ovviamente una necessità, un'urgenza. L'altra cosa invece buona, positiva, è che dopo lungo tempo il tema dei rischi di liquidità, che è stato all'origine, lo ricordiamo, insomma, della crisi di fiducia a valle della crisi di Lehman Brothers, è invece un qualcosa che è stato superato ampiamente, perché tutte le banche europee, ormai il 76% delle banche europee, sostanzialmente neanche lo avverte come un tema. Certo. Quindi questa è la fotografia in grande sintesi che segnala come il comparto bancario italiano

buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati. Siamo insieme per l'ultima parte di Focus Economia. Vi abbiamo già raccontato nella prima, ma lo ribadiamo. Come oggi le borse siano andate molto bene, quindi un netto deciso recupero rispetto ai cali di ieri, e la giornata in Europa ha visto protagonista soprattutto Milano, che chiude con un più 2,61%. Avevamo preannunciato poco fa con Eleonora Micheli anche che sarebbero arrivati i dati, i risultati dei colossi della moda, titoli peraltro in borsa molto penalizzati dalla crisi cinese, e abbiamo proprio i dati di Salvatore Ferragamo, che ha avuto un tracollo nel quarto trimestre dello scorso anno del business ad Hong Kong, come nelle attese, ma complessivamente il 2019 si chiude con ricavi in aumento del 2,3%, il fatturato ammonta a 1.370 milioni di euro. Abbiamo anche ricavi record nel 2019 per LVMH, LVMH, il gruppo guidato da Bernard Arnault, che chiude l'anno con un più 15% appunto di ricavi, fatturato che ammonta a, no scusate, l'utile netto ammonta, no scusate perché qua le agenzie mi stanno mandando i flash appunto un po' scansionati negli istanti, ricavi record più 15% a 53,7 miliardi, l'utile netto lo scorso anno è aumentato del 13%, perdonate le imprecisioni ma sono notizie che vengono diffuse proprio in questi minuti, quindi vedremo domani poi come questi dati impatteranno in borsa. Detto questo, adesso ci occupiamo di tutt'altro e approfondiamo la notizia che avete sentito anche data da Sergio Nava nel giornale radio. Il Portogallo ha deciso di ridurre i benefici fiscali per i pensionati stranieri che scelgono di vivere in quel paese. È successo che appunto il governo ha proposto un emendamento alla finanziaria 2020 prevedendo una tassa del 10% con un pagamento minimo di 7.500 euro su tutte le entrate previdenziali degli stranieri residenti non abituali in loco, categoria che fino ad oggi beneficiava di una totale esenzione fiscale di 10 anni. E allora, che impatto avrà questa novità per tutti coloro che hanno deciso da tempo, parlo di italiani naturalmente, da tempo di trasferirsi in questa località? Sono 2.800, non è una cifra rilevantissima, è stata forse più una notizia folcloristica che altro, ma magari qualcuno sulla scia dell'esempio di successo di queste persone che già si erano trasferite meditava di fare la medesima scelta e adesso non potrà farla perché la tassazione appunto si inasprisce. E allora commentiamola con un esperto che generalmente ci portiamo a due di denari, ma stasera l'abbiamo fatto slittare anche nel tardo pomeriggio, l'avvocato Antonio Longo, studio legale DLA Piper. Buonasera avvocato e bentornato. Buonasera, grazie. Allora, intanto va spiegato che la norma, che questo è un emendamento alla finanziaria, penso che come per tutti i percorsi legislativi anche questa misura dovrà fare il suo percorso parlamentare appunto in Portogallo, ma avvocato Longo, la norma non sarebbe comunque retroattiva, per cui per tutti coloro che sono già là e che godono del beneficio fiscale la situazione rimarrà inalterata? Noi chiaramente, va detto, stiamo commentando le notizie che sono apparse sui giornali, gli approfondimenti, non abbiamo la norma sotto mano, quindi avvocato, lo preciso anche per lei, che so che ci tiene ad essere molto, molto preciso nelle informazioni che ci dà. Che cosa abbiamo saputo fino a questo momento? Sì, in effetti è così, al momento ci atteniamo alle agenzie che commentano l'evoluzione normativa che pare sia ancora in corso, però sembrerebbe appunto che la novità preveda un aumento di fatto del 10% della tassazione per chi dall'estero si trasferisce in Portogallo e percepisce una pensione di fonte non portoghese. Prima per questi soggetti era riservato un trattamento di assoluto favore perché pagavano zero imposte per 10 anni. In effetti la norma, da quanto possiamo apprendere, non è retroattiva, quindi chi si è già trasferito in Portogallo dovrebbe poter continuare ad utilizzare il regime di favore. Chi pensava di trasferirsi in Portogallo a questo punto dovrà sapere che probabilmente, se passa questa misura del governo socialista, la tassazione aumenta fino al 10%. Ecco, quindi prima cosa sarà difficile che si manifesterà un controesodo di questi 2.897 rotti italiani che sono là da qualche tempo. Sì, è difficile che questo avvenga. se la norma appunto non avrà come si prevede effetti retroattivi, probabilmente chi è già lì rimarrà lì. Certo è che questa norma, se posso fare un commento un po' più di ampio respiro, si inserisce un po' in un sistema che vede anche l'Italia partecipare a questa gara del paese più attrattivo da un punto di vista fiscale, perché ne abbiamo anche parlato sì. altre volte, anche l'Italia ha una sua flat tax per i pensionati che dall'estero si trasferiscono in Italia, che equivale al 7%, quindi questi soggetti, che i pensionati esteri che vengono in Italia in un comune del sud Italia con meno di 20.000 abitanti, perché c'è questa esatto. condizione territoriale. E poi di recente la norma è stata modificata, quindi è anche lo spunto per parlarne, perché è stata estesa anche a coloro i quali si trasferiscono in un paese con meno di 3.000 abitanti, tra quelli colpiti dal terremoto del 2016, quindi centro Italia. Questa norma è stata modificata recentissimamente, a dicembre di quest'anno, quindi ci sono oggi due categorie di diciamo, dal punto di vista territoriale, di paesi in cui il pensionato estero che si trasferisce può avere il regime agevolato. Cosa prevede il regime agevolato? Il pagamento di una flat tax pari al 7% sui redditi di fonte estera. Per 5 quindi, anni però? Per 10 anni. 10 anni. Per 10 anni, come in Portogallo. E la cosa interessante è che il regime italiano non si applica solo al reddito da pensione di fonte estera, ma si applica a tutti i redditi di fonte estera. Quindi per accedere al regime italiano bisogna essere un soggetto estero che percepisce una pensione, e questo è un requisito necessario, ma poi il famoso 7% di cui parlavamo prima si applica su qualsiasi reddito di fonte estera. Certo. Quindi una situazione anche abbastanza complessa, che ancora una volta ci dà la misura dell'eterogeneità che c'è in questo nostro continente. Noi prima parlavamo ancora delle differenze del tessuto bancario, ma appunto notiamo che soprattutto nel regime fiscale le discrepanze, l'eterogeneità è ancora molto ampia. Avvocato, allora adesso, a parte il fatto che non abbiamo dato mai dei dati, ma non sappiamo quanto sia stata d'appeal la norma italiana che in qualche maniera incentivava il pensionato italiano a rimanere qui con una tassazione più semplice, più semplificata e più leggera nel caso avesse accettato di prendere la residenza in piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, piccoli comuni intendo comuni con meno di 20.000 abitanti, e non potendo più adesso andare con grande piacere in Portogallo, che inasprisce la tassazione. Quali sono a questo punto i paesi dove si renderà un po' più conveniente andare se si vuole alleggerire la pressione fiscale sulla pensione, perché qua appunto dei pensionati stiamo parlando? Secondo lei, ma facciamo ovviamente anche in questo caso, ho utilizzato molto questo termine, del folklore, dal Portogallo dove si sposteranno secondo lei? Allora, ci sono a livello internazionale sempre meno, ma i paradisi fiscali resistono, cioè ci sono dei posti ancora nel mondo dove si pagano non si pagano le tasse, quindi evidentemente posti come i paesi caraibici sono posti in cui la tassazione è pressoché pari a zero, per cui continuano ad essere molto attrattivi. Per andare su paesi più vicini alla nostra Italia ci sono, a quanto mi risulta, dei paesi dell'Europa dell'Est che applicano delle tassazioni particolarmente sì. incentivanti, quindi pensiamo alla Romania alla Bulgaria, sono dei paesi certamente dove anche lì molti pensionati italiani si sono trasferiti negli ultimi anni. L'elemento fiscale va sempre abbinato al fatto che il pensionato cerca, ma questa è una considerazione più di ampio respiro, un costo della vita più basso, no? Quindi questi paesi si prestano anche in questo senso ad essere attrattivi. Avvocato Longo, grazie per essere stato con noi, vediamo un po' come si evolverà questa situazione portoghese, magari poi ci riproveremo con una trasmissione più ampia a Due di Denari. Intanto grazie e buona serata. A voi, buona serata. Una pausa, poi l'ultimo tema di stasera. Focus Economia. Prima dell'ultimo approfondimento di stasera, una notizia che vedo dalle agenzie. L'italiano Luca De Meo è stato nominato direttore generale di Renault dal prossimo 1 luglio. Lo riferiscono, dicono le agenzie, fonti bene informate, nel giorno in cui era prevista proprio la riunione del consiglio di amministrazione di Renault alle porte di Parigi. E insomma, questa è una notizia che ci fa piacere per questo manager che gode a quanto pare di una reputazione notevole nell'ambiente dell'automotive, appunto, internazionale. Ma noi parliamo di tutt'altro. Allora, vi ho letto questa notizia all'inizio, adesso vale la pena approfondirla. L'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali con le imprese private di termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia europea in questa sentenza che ha visto arriva alla termine appunto di questo procedimento che era stato intrapreso dalla Commissione europea contro l'Italia proprio per i ritardi dei pagamenti nella pubblica amministrazione. Questo è un tema che soprattutto in questa trasmissione è stato dibattuto tantissimo, che ha portato grandissime difficoltà alle aziende italiane, migliaia le aziende che hanno chiuso proprio perché la pubblica amministrazione non ha mai rispettato i termini di pagamento. Qua altro che 30 o 60 giorni, sono termini di pagamento infiniti, anzi nessun termine di pagamento, perché proprio per mancato rispetto di questi impegni le aziende hanno chiuso e sono state tante. Allora la Commissione europea aveva aperto questa procedura di infrazione contro Roma deferendola alla Corte di Giustizia, che oggi ha constatato una violazione della direttiva sulla lotta contro i ritardi di pagamento. Buonasera a Giampiero Oddone, amministratore delegato di Officine CST. Questa è una società che si occupa di gestione dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, che questo tema dunque lo conosce molto bene. Buonasera, dottor Oddone. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, come dobbiamo giudicare questa pronuncia della Corte di Giustizia? La Corte di Giustizia non ha fatto che prendere atto della situazione che purtroppo ancora in Italia continua ad essere tesa per quanto riguarda il discorso dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. C'è una direttiva, che è la direttiva 2011/7 dell'Unione Europea, che deve naturalmente essere recepita, che è stata recepita dallo Stato italiano così come da tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, prevede delle tempistiche di pagamento che sono 30 giorni, come diceva prima lei, o massimo 60 giorni se la PA svolge attività economiche di natura industriale, commerciale, o è un ente che fornisce assistenza sanitaria. Quindi non ha assolutamente, l'Italia ha rispettato ciò che appunto era imposto dalla direttiva. Oggi qual è la prassi più diffusa? Insomma, in che tempi la pubblica amministrazione paga le imprese che ottengono appunto delle commesse dalla PA, dottor Oddone, e quali sono le imprese più penalizzate dai ritardi di pagamenti in questo momento della pubblica amministrazione? In che misura magari negli anni un po' il problema si è alleviato? Avete osservato comunque un trend di minimo miglioramento, anche se siamo dovuti arrivare appunto alla Corte di Giustizia? Sì, no, assolutamente sì. Cioè, i tempi di pagamento strabiblici sono migliorati, quindi soprattutto ci sono dei settori che hanno subito un forte miglioramento, che sono soprattutto appunto i settori sul fronte sanitario. Nella sanità ormai si arriva a tempi massimi che naturalmente sono più alti dei 30 giorni, dei 60 giorni che sono stabiliti, però arrivano a punte di 150-160 giorni. Dov'è che si vede ancora una tempistica particolarmente lunga, dei picchi riscontrati appunto sui tempi di pagamento, e noi li vediamo lavorando con oltre 10.000 pubbliche amministrazioni un po' tutti i giorni, sono anche amministrazioni centrali dove ci sono anche picchi di 500 giorni, ci sono comuni e province dove ci sono picchi di 320 giorni. Quindi un anno e mezzo, anche due addirittura. Appunto, ci sono regioni che si avvicinano anche qui ai 500 giorni di picco. E ci sono naturalmente altri enti che hanno sempre picchi oltre i 250 giorni. Queste cose mi fanno impazzire veramente, perché poi quando ovviamente un lavoro viene commissionato, lo si vuole chiaramente effettuato nei tempi previsti, pattuiti magari contrattualmente, però per il pagamento arrivederci e grazie. Oggi c'è stata anche una dichiarazione del presidente dell'ANCI, l'associazione dei costruttori, Gabriele Buia, che ha detto: non fa piacere vedere il proprio paese condannato per inadempienza rispetto agli obblighi comunitari, ma era inevitabile, Oddone? Era inevitabile, purtroppo i motivi per cui alla fine c'è un allungamento dei tempi di pagamento sono sostanzialmente tre: c'è quando c'è un'efficienza un po' compromessa delle procedure di registrazione delle fatture, qua c'è stato un grande miglioramento con la piattaforma certificazione crediti, però non tutte le pubbliche amministrazioni sono andate al passo, no? Con miglioramenti tecnologici che sono stati messi a disposizione, per cui soprattutto diciamo purtroppo pubbliche amministrazioni che in gran parte sono nel centro-sud, esiste pure qualche macchia di leopardo nel nord, però hanno difficoltà a registrare in tempi rapidi appunto la fattura, e quindi la riconciliazione diventa più lunga, mm-hmm. e i tempi di pagamento si allungano. Ma l'altro fattore per cui naturalmente c'è una difficoltà nel pagare nei tempi previsti è proprio l'insufficienza di fondi, che può essere temporanea e naturalmente che dipende da trasferimenti magari dall'amministrazione centrale a volte a quelle più periferiche. Dai trasferimenti erariali o dalla difficoltà di avere altre fonti di finanziamento, oppure dalla difficoltà di percepire le imposte locali che vengono richieste, no? Ecco. Quindi pure colpa del contribuente, ovviamente poi no. Purtroppo questa... è un circolo vizioso, perché poi alla fine è il contribuente che vive in una situazione di crisi economica, logicamente. Certo. Dottor Oddone, insomma, cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, ci manca un minuto di tempo. Un ascoltatore dice: negli ultimi anni, soprattutto nei comuni, sono notevolmente migliorati questi tempi, si arriva anche a 30 giorni, insomma, il che ci sembra come il pagamento di uno stipendio normale. Ci sono anche in questo caso amministrazioni ed amministrazioni, quelle virtuose e quelle un po' meno? Assolutamente sì. No, esistono amministrazioni che pagano in maniera assoluta e regolare. Esistono però, ad esempio, noi abbiamo un osservatorio che ne ha individuate 129, cioè di enti che noi chiamiamo critici per notizie e indicatori negativi, e che rischiano di andare appunto in procedure di riequilibrio finanziario o di stesso finanziario. Logicamente questi non riescono a far fronte ai tempi di pagamento previsti. Quindi esiste una lista di questi 129 enti, nel caso circolino anche dei bandi di gara per partecipare appunto a qualche lavoro per questi enti, stiamone lontani, perché sennò non ci pagano più. Dottor Oddone, grazie. Sì, il tempo è terminato, la ringrazio per il suo contributo, grazie a Barbara Bianchi, a Claudio Balboni per l'assistenza in redazione, Valeria Bernardi per l'assistenza tecnica. Domani vi restituisco Barisoni, ma ahimè giovedì devo tornare io, e quindi abbiate pazienza. Intanto buona serata a tutti.